Wall Street, I viaggi del lupo. Venerdì 2 febbraio e stiamo per iniziare una nuova puntata di Wolf Trips. Oggi ci siamo io, Domenico Biancardi e... Vai. Tony, Gin Tonic, come volete chiamarmi. Ciao a tutti. Che tra l'altro siamo rimasti da soli stasera. Vabbè dai, ci farà compagnia la musica, dai. Va bene, dai. Poi mettiamo sempre buona musica e... Beh, Dolce Cristina... È andata a magnà. È andata a magnà. Qui abbiamo, anche l'orario è giusto. Qui abbiamo sempre le assenze giustificate per andare a magnà. Sì, è vero. Qualche volta lo facciamo anche noi. Direi. Okay. Tra l'altro abbiamo già fatto una pausa settimana scorsa perché eravamo andati a sentire la musica dei Ruvidi. Chissà perché. Chi sono questi Ruvidi? Un gruppetto. Gentaglia, bravo. Un gruppetto così. Invece partiamo subito con la gente seria. Ecco. Ah. Hai visto. Non so se l'hai mai sentito, loro si chiamano Brass Tracks. No, non penso che li hai mai sentiti. No. Comunque è un duo di New York che fa musica che mischia un po' il soul, il jazz e il funky elettronico. Questo pezzo è molto tranquillo, però... E già mi piace, già tutto quello che hai detto... Hai visto. Sì. Te l'ho detto io che stasera c'era Partiamo una musica... così. Bella carica. Scegliamo subito uno dei tuoi brani, dai, così almeno... purtroppo, sai com'è, il bello della diretta dobbiamo un po' improvvisare. Passiamo uno così, poi facciamo la rubrica, dai. Va bene. Quindi qual è che volevamo suonare? Mettiamo Classic, dai. Classic, ok. Dai, quindi dei... cos'è che era? Aspetta che non mi ricordo già più. The Knock, ok. Andiamo a ascoltarcelo. Power. Thank you. Bene, bene, siamo ritornati con un mio pezzo. Già, partiamo subito con il mio pezzo. Sembra che abbiamo cambiato. No, vabbè, abbiamo il programma com'è? È tuo, eh? Ho capito, però abbiamo avuto un attimo di defiance dal PC. Ma il computer non era più abituato a certi pezzi. Sì, allora. Sì, sì, no, perché noi lo sfruttiamo al massimo. Quindi quando facciamo il nostro programma ha sempre un po' di paura, un po' di timore. Vabbè. Quindi abbiamo ascoltato il brano di. L'avevamo già ascoltato, dei Knox. Mezza tonica di qualche sì, tempo. Giusto. Adesso. Tra l'altro, i cantanti sono i Powers, che è un gruppo che a me piace molto. E aspetta, fammi vedere. No, non c'è nulla in programma loro. La parte importante, diciamo, interessante è quella femminile del gruppo, del duo. Sì. Beh, comunque loro come brani fanno della musica electro dance, secondo me. Non so se hai sentito gli altri pezzi. Sì, cioè, li ho sentiti. Hanno sempre la voce che è molto melodica, però i loro brani sono belli... Non pestati, hanno un bel ritmo, ecco, un bel riff. Sul non melodico poi ti dirò sui miei pezzi che ho scelto stasera. Sì, abbiamo fatto qualche anticipazione su Facebook. Sì, ok. Intanto, ma quasi quasi io lancerei i contatti. Poi va bene, dai. Sai come si dice dalle mie parti, se vuoi contattarci ci contatti, se non ci vuoi contattare si direbbe in un altro modo, però. Allora, beh, il telefono direi anche quasi no. Facciamo il WhatsApp? Messaggi vocali e WhatsApp al 338-222-8983. Ok. Poi abbiamo, vabbè, le chiamate in diretta, ma cioè, vabbè, lo diciamo lo stesso. Ma chi è che? Vabbè, 0331-223000. E magari ci chiamerà qualcuno. E poi, vabbè, le mail in diretta non mandatele neanche, perché non so neanche come aprirle, ve lo dico già. E quelle di domenica non arrivano neanche. Però se volete contattarci in realtà su Facebook, la nostra pagina è la pagina, la cercate su Facebook, Wolf Rips, e da lì rispondiamo sicuramente in tempi molto brevi. Quindi, allora, ricapitoliamo. Ritorniamo al brano iniziale. Forse. L'ho messo due volte così. Sicuri. Dice uno dei due dovrebbe funzionare. Bene, allora. Ci riproviamo. Dai. Allora, loro sono i Brass Tracks con Alexander Lewis. E il brano è All of the Lights. È uno scioglilingua. Vediamo se riusciamo ad ascoltarlo. Sembra di sì. Ce l'abbiamo già in sottofondo. We'll be right back. questi erano i Brass Tracks con questo brano che mixava un po' di musica soul, funky e anche jazz. Anche jazz, senti, con ancora questi tromboni di sottofondo. Campionati o...? No, suonati perché loro sono proprio duo live. Tanto stai morendo. Sì, sì, sto morendo. L'altra volta era, diciamo, cioè, allora, la noia. È la noia, sì, la noia. Sì, Vasco Rossi, sì, vabbè. No, ciao, l'altra volta stai morendo perché c'avevi la polvere. La polvere. Oggi stai morendo per la perché sete. Ho preso l'acqua per la polvere. Va bene. Vabbè, siamo messi bene, dai, va bene. Intanto salutiamo Fabio che ci ha paccato allegramente. No, io vedo una brutta presenza dietro Rita. Ah no, non ci ha paccato, eccolo qua. Ok, è ok. Sotto forma di persona quasi per bene. Stavo dicendo che salutiamo Fabio che ci ha paccato allegramente, invece spunta alle nostre spalle. Bene, bene, bene. Va bene, va bene. E, andiamo a ascoltare il prossimo brano, così intanto Fabio si sistema un attimino. Mi piace anche la base che c'è sotto. Hai visto? Sì. Ti piace. No, ma ho scelto un po' di base, adesso ne sto producendo anche alcune. Okay. Questa, vabbè, questa è famosa, è Daft Punk, senti. Non mi ricordo più come si chiama. Rock. No, qualcosa del genere. Poi praticamente è lo stesso pezzo, sì, che hanno ricampionato di un gruppo degli anni 70. Sì, sì, sì, sì. Allora, andiamo a ascoltare il prossimo brano che è di Post Malone. Prima com'era? non lo so, lui si chiama Austin Richard Post. Tra l'altro c'è scritto che è nato a Syracuse. Sì, la stessa città di Tom Cruise. Sì, che in realtà non è Siracusa, ma è lo stato degli Stati Uniti. Perché se lo leggi Syracuse, ma così... Chiaramente, sicuramente è stato fondata, comunque... Il nome scelto per quello? Sì, sì. Minchia, minchia. Allora, vabbè, il genere che viene classificato è trap e cloud rap. Cioè, condiviso sulla nuvola. Però, vabbè, visto che Tony è un po', diciamo, ostico verso la trap, poi spiegherò che cos'era il genere trap, da cosa nasce. Andiamo ad ascoltare intanto il brano di Post Malone, Burning Man. Allora, intanto, ciao Fabio, visto che sei arrivato. Ciao a tutti quanti, alla fine sono arrivato. Ce l'hai fatta, ce l'hai fatta. Sì, sai, il traffico, sì, il sì, camion. Sì. No, ma perché aerei. C'era. Eri in tangenziale, giusto? Bravo. E sì, il pezzo. Se notate che... qualche pirla in tangenziale che andava veloce sulla corsa di sorpasso, ero io. Ma mi sa che la tangenziale è diventato un posto così molto ispiratrice come sì, nel... tra film, canzoni, giusto giusto, e la gente vabbè. Stanno dicendo che il pezzo che mi ha ascoltato prima di Post Malone è trap. Allora, il genere trap in realtà, ma perché l'ha fatto l'allenatore della nazionale, no? Cos'è che è? Ah, no, in realtà il genere ha una storia un po' strana, nel senso che trap erano le trap house, cioè le case dove si andavano a drogare la gente. Poi da lì praticamente hanno ripreso l'idea, perché è uno slang trapping che è spacciare, e da lì hanno ripreso l'idea poi i locali, cioè hanno creato una sorta di luogo dove la gente andava lì, luogo buio, chissà a far cosa, e divenne le trap house. Poi in realtà adesso la moda trap, che a te non piace, a me non dispiace alcune volte, viene ripresa, diciamo, dai campionatori, ecco, dal fatto di campionare i suoni, dal fatto di fare delle melodie abbastanza stupide che continuano a ripetersi. Però in alcuni casi, tipo quello che abbiamo ascoltato prima, vedi, c'era anche un giro di chitarra, non so se magari era un VST, cioè un programmino che lo riproduceva, o l'abbia suonato realmente. Adesso non più non si capisce quello che è veramente suonato. Eh sì. Cioè, penso che il 99% ormai non è neanche più suonato, cioè. Vabbè. Fabio, ti vedo. No, Fabio si sta sistemando. Sì, lo vedo che ancora. Sto cercando il mio ambiente. Si sta assestando. Allora, intanto che si assesta, facciamo così: ascoltiamoci il prossimo brano. Che è un brano, è un brano che a me piace molto. Non c'entra tantissimo con Wolf Trips, però. Ma io li adoro questi. A me piacciono tantissimo. Hanno fatto proprio due pezzi, mamma forse mia, qualche anno fa, che erano geniali. Ma questi sono in due, sì? Ma suonano, secondo me, hanno girato per 20 sono, persone. Sono dei geni. Non sono 21? No. Sì. Sono i 21 Pilots. Yes. E il brano è Stressed Out. Questo qua l'ho ascoltato, penso, in loop mille volte. E ce n'è anche un altro molto carino. Però andiamo a ascoltarci questo qua, che è caratteristico. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice, I sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose. Same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face. And I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. And give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah, We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream about a space, but now they're laughing at our face, singing, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Devo proporgli a un certo Felice di fare un brano così. Bravo, bravo. Perché mi piace veramente tanto. Un po', sì, magari un po' più alla ruvida. Diciamo anche noi. Sì, un po' più alla ruvida. Che tra l'altro il video di questo brano qua, non so se l'avete visto. Sì, l'ho visto. Sì. Sul triciclo. Sul triciclo, sì, sì. Bello, bello, bello. Bellissimo. No, ma anche la canzone è bella perché. Non è pensavo come... di mettere una caccata di canzone, invece vedo che mi piace anche a voi. No, ma è anche molto ritmata. Secondo me una delle loro più belle è quella dove sono tipo in un teatro, sì, in due, cos'è, 21 Guns, una roba del genere. No, 21 Guns, no, è 21 Pilots e forse è Guns la canzone. 21 grammi, diciamo altre cavolate. No, capito, non mi ricordo il titolo, però no, anche quella... Io tra l'altro ho visto anche il live che hanno fatto a Coachella, che sì, hanno fatto il provincia di California. Bari Est. No, hanno fatto un live secondo me notevole, perché tra l'altro effettivamente loro sono in due, però tengono il palco davvero come se fossero in 21. Ma hanno strumentazioni, cioè no, avevano due robe sì, avevano, cioè uno è impressionante. Un se non erro, l'altro è un bassista e cantante, ma veramente sono cioè veramente loro tengono il palco per 20 persone. Ecco, no, ecco una cosa che mi è venuta in mente. Tempo fa, forse tu non c'eri, avevamo fatto una serata con Radio Lupo c'era una serata live e hanno suonato un gruppo che si chiama Le Mondane. Non so se tu c'eri. No. Sono due ragazzi. Non ho mai visto Le Mondane, tornate! No, in realtà sono due ragazzi. Sono Le Mondine. Non sono due ragazzi. Anche loro suonano, sono in due, suonano tipo una sessantina di strumenti, ma tipo il kazoo, cose particolari. E fanno della musica davvero bella. Mi sa che proporrò di farsi un giro qua, perché secondo me adesso che ci potrebbero stare come musica underground. Ah beh, vero. Sì. Attenzione che ti può rubare l'idea anche il programma prima che vieni di noi, il giovedì sera, di Electro Moody, perché anche loro sono un underground. No, ma lui è più ciao Dario, lui è un tamarrone. E infatti il brano che voglio mettere dopo è un po' tamarro, non so se lo conosci. La Rux. Sì. E beh, famosa Paris Uber. E forse è questo. In francese? No, questo qua è In For no, The Kill. No, quello era francese. Paris Uber, che è francese, e la Paris Flair. Va bene. Allora, scusate, adesso diremo che ci ascoltiamo questo brano qua. Poi inizia a prepararti, che ti interrogo un po' sull'evento che si è tenuto nei giorni scorsi. Perché noi l'abbiamo mandato come inviato, sì. Diciamo che Radio Lupo ha fatto questo investimento, sì. L'abbiamo mandato il nostro amico come inviato, sì, con Pullman è stato fatto l'investimento. Si è fatto una settimana a babbo, pensa, di Radio Lupo lì in America, lì, dove che l'hanno fatto. Aspetta, e noi paghiamo, ma che poi ci credono. È stata a New York, al Madison Square Garden, una settimana chiuso nascosto tra i, diciamo, i, non so, i sotterranei. Sì, no, in realtà era lì a pulire il parco. Ha fatto anche l'intervista con Bruno Mars, che ha spopolato. Sì. Ha spopolato, abbiamo avuto un'intervista. Poi ti ha regalato anche un po' di cose da mangiare. Ha regalato un Grammy, tanto non c'è. Ne ha 26, dunque. No, pensavo di aver regalato, che so, ma Mars. Questa battuta del Mars, ormai gliela diranno anche non so quante volte. Io non gliel'ho detto. Va bene. Andiamo a ascoltarci quindi la Rux In For The Kill. L'ho detto giusto? Boh. Sì. Speriamo. Credo di sì. Ehi, siamo ritornati. No, Fabio, sono lui. Che ti stai facendo qualche grammo, eh? No, è il Grammy che ti è andato. Te lo sei già l'ho già scaldato. Ma raccontaci un po' di questa serata. E niente, no, io... proprio dall'inizio. Dall'inizio, sei arrivato no, a JFK. Dall'inizio, no, beh, sono arrivato all'aeroporto. JFK. Sono metro. L'incontro col cartellino. Ma neanche, guarda. No, io sono entrato diretto. No. Senza pass, senza niente. Senza e gnocche? Tanto. Eccolo lì. Sì. Beh, oddio. Poi quella veramente che è stata fuori, diciamo, nello spettacolo era poca, perché comunque... C'era questa cosa qua che quest'anno le donne non sono state cagate per niente. È vero. Poco valorizzate. Sì, poche vincitrici, due o tre, credo. Chi? Lord. Poi che c'era? Lord, che la Lord, la salutiamo. Femminile, la salutiamo. Credo, non so le altre perché poi hanno un sacco di categorie. Allora, non so se possiamo considerare femmine Portugal The Man, però diciamo che con la voce un po' si avvicina. Che tra l'altro hanno vinto anche loro, ve lo volevo dire. Visto che grazie a Radio Lupo li abbiamo fatti ascoltare. Sì. E niente, allora c'era questa polemica che le donne sono state poco premiate e che gli uomini hanno sempre come fa. Secondo te chi doveva vincere? Shakira è stata premiata. Anche lei? Shakira. Sì. E aveva fatto un colpo di bacino. Rispetto a qualche Grammy assegnato a qualcun altro che se lo poteva meritare nel campo femminile piuttosto che maschile? Ma Katy Perry ha fatto un bel disco, secondo me molto bello, cioè molto commerciale. Poi il Grammy... Che ti perdi. Infatti non c'era neanche lei. Anche un brano, oggi sai che ho trovato praticamente, diciamo, la musica un po' del... quello che può essere il Grammy, però in versione Wolf Trips. Anche un brano dove c'è Katy Perry un po' agli esordi. Lo ascolteremo più tardi. 2007. Sì. Vabbè, comunque, questi Grammy qua... Com'è finita? Io in due parole, dai. Poi ha vinto 6 Grammy Bruno Mars. Che tu hai intervistato. Sì. Diciamolo a tutti quanti, perché a Radio Lupo è costata questa intervista. È stata un'intervista a morsi, diciamo. E infatti oggi siamo in mutande, perché... Esagerato. Abbiamo dovuto vendere tutto. Fare un doppio lavoro, infatti siamo arrivati in ritardo. Cazzo, ci siamo venduti anche la password del computer. Non abbiamo più il computer. Infatti stiamo inventando una marea di fregnacce, perché non abbiamo modo di controllare. Vabbè, Bruno Mars ha vinto 6 Grammy. Perché tu sei andato, noi no. Ma sì, vabbè, ma questo è un particolare. Ma poi ti hanno fermato... in dogana? Perché c'era la dogana? Non per i 6 grammi. No, ma mica me l'ha dati tutti a me. A me l'ha dato uno. Gli altri 5 li ho portati a casa a fare la festa. Festicciola. Ma quanti anni ha Bruno Mars? 33 anni. Sembra che da una vita che in giro. Sì, è già rotto le balle quasi. No. Allora, adesso vabbè, la sparo. È proprio secondo sparo. Però a me sa di il successore proprio di Michael Jackson. Sì, molti lo dicono, ma lui è bravo, cioè comunque a parte gli scherzi lui è bravo sia a cantare, poi ho visto, che comunque ad essere un artista. Ho visto un video che imitava vari cantanti, tra cui anche Michael Jackson. Sì, no, ma lui si ispira molto, guarda. Per forza, che non potrebbe ispirarsi a lui? Non lo so, magari qualcuno si ispira, che so, a... Ornella Vanoni. Bravo. Attenzione, Ornella Vanoni è una grande cantante, eh. Sì, ma per i Grammy... A Gary Newman, che ascolteremo dopo. Ma te sai chi ha vinto il primo Grammy? Dai, vediamo se lo sai. Non lo so. Nella storia della musica. Io metto in giro, non lo so. Non lo sai? No. Se no ti dicevo, una certa canzone italiana, la canzone più famosa italiana. Volare, Comodogno. Il primo Grammy a Awards è stato vinto da un italiano. Tegherasun, eccolo qua. Nel 1959, tra l'altro. La prima edizione. Siamo stati i padri pellegrini dei Grammy Awards. Pensa che in quell'anno c'era anche album dell'anno Frank Sinatra e Della Fitzgerald, che non hanno vinto però, pensa, ha vinto Modugno e non hanno vinto loro. Pensa a te. Pensa cioè, un tu po'. Renditi conto come... Cioè, come... Però adesso mi sa che il Grammy è un po' cambiato, eh. Come tante cose normale. Ha perso un po' di smalto, infatti, poi se ne parleremo, c'è una polemica molto rock. Ma aspettiamo a parlarne. Giustamente. Andiamo ad ascoltare quindi il brano di Bruno Mars con That's What I like it. Ah, non è quella. è il brano che ha vinto i Grammy Awards, però una versione un po' più, diciamo... Remix. Ancora trap. Per la felicità di... Anzi, dire ancora Trump. So gone and get to clapping. Go pop a phone, play, pop a phone. Turn around and drop it for a plan. Drop a phone. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac, girls, put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. Say the word and we go. You can be my freaka. Girl, I'll be a freako, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Sharpest breeze in Paris. Every day 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us. Say it's us. And I'll agree. Questo era il brano di Bruno Mars, ma piasami. Sì, infatti anche a me, stranamente, anche se una versione trap. Ma trap, diciamo, sì, magari devo approfondire la cosa, perché secondo me è una cosa di moda. Perché va sì, di moda, sì, ecco. Sì, sì. Come dire trap, reggaeton, trap. Aiuto, un'altra parola che... Reggaeton che tra l'altro stamattina andando al lavoro ho sentito il nuovo brano di Lorna. Quello che tu dicevi che non era di Lorna. Di Lorna tempo fa stavamo... Sì, perché io... È suo. Sapevo che dicevano che era morto. No, è suo, morta. È suo. Quindi dopo Papi Ciulo è tornata con una canzone, sì, tipo Papi, anche... Papi Amimi, mamma. Sì, che non era brutta però, detto la verità. Niente, vabbè. vabbè. Quindi io andiamo... Pensavo una cosa, io pensavo, se facessi un programma, sì? Di musica trap, mi chiamerei Trapattoni. Lo puoi cagata. Uccidere, lo puoi uccidere. Vabbè, quindi dopo questa cagata introduciamo invece la tua rubrica. Iniziamo a mettere un po' di tonica nel bicchiere. Allora, cazzo, però potresti portarlo un po' di roba da bere. Ho portato un po' d'acqua, però non so. Ragazzo, non ho capito come funziona. Acqua. Cioè, adesso bisogna anche te, cioè, acqua, tu parli tanto. No, ma anche lui, quando facciamo le prove, ogni tanto porta qualcosa. Ma io non faccio parte del gruppo di Rubidi. Fai parte del gruppo di Wolf Trips, sempre di un gruppo fai parte. Cioè, io porto di là e tu porti di qua, l'ho capito. Vabbè, la prossima allora, volta, dopo invece ti racconto qualcosa. Cos'è successo con Fabio e la birra. Però per adesso rimaniamo sul gin tonic. Ma. Allora, va bene. Allora, presento il primo pezzo di stasera. Allora, un gruppo molto famoso negli anni 90. Che stai facendo te? Che mi sta disturbando questo ragazzo. Sto toccando il cavetto, si eccita, diventa duro poi. Vabbè, si sente meglio poi. Primo pezzo per mezzatonica sono le All Saints con For Sure, prodotta da William Orbit, che sapete chi è, no? Sì, no, sì, io sì, conosco sì. benissimo le All Saints, che erano delle 4 e le Orbit, che sono le chewing gum. Beh, la canzone fa parte della colonna sonora di Beach con Leonardo DiCaprio. Ah, 2000. Bello il film, bello, sì, sì, sì. E questo pezzo, beh, non c'è niente da dire, basta solamente ascoltare. Adesso lo ascolterai, è un bel viaggio, sì. Io comunque devo dirti la verità, poi dopo questa mi suicido da solo. Ho sempre pensato che il titolo fosse Poor Shoes. Sì, anch'io. L'ho letto adesso, che Poor Shores. Shores. Ragazzi, c'è da spegnere il falò, ragazzi, c'è da spegnere il falò. Attenzione, spegnere il falò alla cassa numero 6. Vai, non lo so. Aperta. Non lo so. C'è cassa. Tipo, c'è un bambino alla cassa numero 6. Biancardi è pregato di recarsi alla cassa numero 4. Vabbè, dopo questa serie di cavolate, volevo raccontarne un'altra che è successa poco tempo fa. Quindi tu ci hai portato un po' di gin tonic e Fabio invece solitamente porta della birra, giusto? Non quando facciamo le prove con i rumini. Okay. No, lui la porta. Ciao, sono Fabio, ho 34 anni. Aspetta che ci vuole il bianco. Sono 2 ore che non bevo. Ok. Bravo Fabio. Tempo fa praticamente abbiamo fatto le prove, erano tutti belli, contenti e felici perché dovevamo suonare. E allora per festeggiare Fabio ha portato delle birre, no? Ci ha portato, 3 birre normalissime, buone, diciamo di marche conosciute, e una birra molto particolare da dare al nostro bassista, non mi ricordo che birra, birra era. Molto no, forte. batterista. Si chiamava Forte proprio. Forte, sì. Niente, usciamo fuori dalla sala prove, meno male. Si sboccia proprio in amicizia. Apriamo le birre, a un certo punto si sente spam, birra ovunque. Prende, poggiando la birra, penso solo sul davanzale della finestra, non so. Esplosa. Ha fatto esplodere. Ti giuro, una cosa era proprio forte sta birra. Vabbè, almeno ha preso qualcosa. Però Nick, il nostro batterista, mi deve ringraziare. Sì. Se l'avesse bevuto, mi sarebbe esplosa in bocca. Sarebbe scoppiato. Quindi i rovini cercavano. Sarebbe scoppiata la batteria. Scusate. A oggi dovremmo cercare un nuovo batterista. Cioè, fortunatamente, però adesso ce l'abbiamo. Vabbè. Continuiamo un po' con la storia dei Grammy. Visto che prima abbiamo nominato anche che la grande mancanza di Katy Perry. Sì, anche che lei. Ti perdi. Che si è persa, ma che si sono persi loro. Sì. Poi lei è stata una di quelle che ha twittato a una risposta di Pink che si lamentava appunto delle donne che. Perché il. Sì, ma non se la devono menare troppo, però. Cioè. Ciò quello che dici. No, vabbè, ho capito. No, cioè. Ci miele, lo sai, no? No, ho capito, però voglio dire, hanno vinto. Quanti ne hanno vinti l'anno scorso? 100.000. Non lo so, l'anno scorso non mi ricordo. Sì, l'anno scorso non è andato lui. L'anno scorso non mi hanno dato il. No, ma l'anno scorso è andato un altro di Radio Lupo, capito? Era di un altro programma. L'anno scorso eravamo appena nati, quindi non ci davano. Avevamo un budget piccolo. Quest'anno avevamo avuto questo budget enorme. Ali. Vabbè. L'anno prossimo infatti ti chiedevano se volevi fare il tour di Tomorrowland e tutti gli altri festival. Se sei pronto. È un grosso impegno. Sì, il Tomorrowland come. Poi un grosso compito. Saresti il nostro referente all'estero. Perfetto. È un poliglotta. Comunque, stavi dicendo quindi che Pink ha twittato questa cosa acida e lei gli ha risposto. Il direttore ha detto: ma donne, fatevi avanti, se fate delle cose belle, eh? E Pink ha detto: ma noi le facciamo se. Cioè, c'è bisogno. Sì. Infatti, sono d'accordo. Sono d'accordo. Perry anche lei. A parte la canzone di Pink, che l'ultima non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta. No, adesso non mi ricordo il nome esattamente. Beh, lei. Vabbè, è l'ultima comunque, dai, non è. Ma lei è sempre stata un po' fuori da. Dal mainstream comunque. Get the Party Started è la migliore. Scritta da? Non mi ricordo, però mi ricordo che c'era un remix hip hop ufficiale di non mi ricordo di chi. Però era qualcosa di fenomenale. È stata scritta dalla cantante delle Formabolos. È vero, Minchia, abbiamo Sapientino. Cazzo, l'uomo gatto dovremmo chiamare. Sì. Wikipedia in persona. Sono cose Saramanda, che mi ricordo perché sono l'unica cosa che ho studiato. Ah, ecco. Bene, allora facciamo un bel salto nel 2009. Con un brano dove canta Katy Perry. Che tra l'altro cercatevelo sul video perché no, secondo me Katy Perry che è meglio. Sì, perché secondo me non era male all'epoca. E ma anche adesso no. Il brano è dei Trio di con Katy è così. Ma, scusa, adesso dici quello o per chi è? Allora, per Katy Perry. Ah, ecco. Io lì volevo portare. Faccio lo spelling. Allora, Trio H punto esclamativo. Ma l'H che si fa. Ma in inglese dovresti dirlo. Che Trio 3. Trio 3. Punto esclamativo così. È incisivo, no? Sì. Il brano, loro sono, è quasi imperativo come nei verbi. Loro sono dei super tamarri, mi sembra anche non. Degli Stati Uniti, che però in Italia non sono mai arrivati come musica. Mi sembra che hanno fatto una data a casa a Busterlengo. Sì. Al casello. Però bravo. C'era la nebbia, quindi non c'era nessuno. Il brano si chiama Starstruck. Dove fa un corso accelerato di inglese? Star Trek. Vabbè, no. Andiamo ad ascoltarla, poi mi dite quanto sono tamarri. I Viaggi del Lupo. Siete, vi siete riconnessi? Sì, sì, vi, sì, vedo, sì. Vi vedo un po' persi. Sì, siamo pronti operativi. Sì, infatti okay, okay. La parola riconnessi. Gira la ruota, yeah, yeah. Yeah, yeah. Vabbè, comunque, allora abbiamo ascoltato prima trio con Katy Perry, Star Trucks. Trio. E poi abbiamo ascoltato invece questo brano di Cardi B, che a me piace un casino la voce. Proprio, c'è una voce proprio bella tamarra, un po' più nuovo. Ecco, infatti, era proprio così. Ricordava Fast and Furious. Sì, è vero, c'era un pezzo di Fast and Furious che ricorda molto il brano. Ma tutti che ascoltano. Io ti giuro, mi rifiuto di ascoltare le colonne sonore di Fast and Furious. Io ho guardato il film, era pieno di rock. No, ma non guardare il film, ma ascoltare le canzoni. Danza Kuduro, scusami, non ti ricordo la canzone di Danza. Mamma mia, sì, guarda. Fast and Furious, scusami. Guarda che se mi fai quella faccia te la metto su, così ci sbattono fuori dalla. Ma no, guarda, passa anche di peggio, mi sa. Sì, infatti. La patata Fast and Furious. La patata Fast and Furious? Sì. Veloce così. E quindi, è un visto po' come che... tutte le sere. Cioè, guarda qua, senza volerlo, guarda il prossimo pezzo che cos'è? Ma da vecchio DJ che sei. T'ho visto. Ti attacchi proprio, ti agganci. Allora, facciamo un salto proprio indietro nel tempo, perché nel 1979. Cavolo, oggi siamo. Sto cavolo lì. Oggi è sbilanciato, mica colpa mia. Oggi ho preso la macchina del tempo per fare i miei anche trips. Anche questa cosa. Ma... poi magari non lo sa dire il titolo, però. Allora, gira la ruota. Yeah. Allora, comunque, lui è Gary Numan. Numan, giusto? Sì, o Numan? Sì. Numan. Sai che. Io credo che sia il Numan. Newman. E niente, aveva fatto questo brano che si chiama Cars, cioè, a proposito di Fast and Furious, quindi ci colleghiamo a Cars. Sì, magari la qualità non è la stessa, però... Un altro brano che comunque non so quanto fosse diffuso in Italia, però so che un quell'estero era arrivato in buone posizioni per essere anche nel periodo 1980, comunque c'era anche un altro tipo di musica. In Italia era poco difficile, cioè infatti, poco e niente. Fai conto infatti, che i primi 1980, sì. Sì. Lui infatti è, diciamo, considerato synth pop new wave, quindi... Ma il padre, diciamo, di quel genere lì, che in Italia poi diaframma via dicendo. Ultravox sì? Anche Ultravox. Ah sì sì, è vero. Sì sì, i primi Ultravox. Tu dici ma che cazzo state a dire? Perché lui comunque diciamo che in quegli anni lì, a parte che non essere nato, non ero nato nemmeno io. E beh, comunque lì ho 5 anni, non è che. Eh beh, già ascoltavi. Già ascoltavo gli Ultravox che il numero. La cassetta col dittino nel mangianastri. Ma questo è anche il come disco, la vodka, il mangianastri, no? Sì. E lui invece praticamente ascoltava solo punk. Cioè lui ascoltava tipo, dimmi qualche gruppo che sì, ascoltavi. Allora, quando dei peggiori, dei peggiori. Cioè i Pennywise, no, Pennywise ok, ci stavano, no? Io dico dei peggiori. No, ah, peggiori che gli Arturo, cazzo, gli Arturo sono venuti anche qua a Radio Lupo, che se ascolti un loro pezzo dici, ma che cosa stai facendo? Gli Arturo, cioè, diciamo che è diciamo duro. Gruppi come i Negazioni per lui sono roba troppo d'elite. No, lui ascoltava, non so se si può dire, McDonald's, ecco. Sì, ma questa è la Radio Lupo che si conosce da tanti anni. Infatti c'è ancora la mia demo di quando ho 15 anni sì? Là dietro. Che, sì. Che gruppo suonavi? Il Camisa Scapanca ai tempi. Ah, è vero, me l'hai raccontato. Vabbè, andiamo a farci quindi questo viaggetto nel tempo con la macchina. Si è aperto il dibattito se Newman o Newman. Newman, secondo me è Newman. Newman. A leggerlo è Newman. Sì, anche secondo me. Anche secondo me. quindi freniamo? Sì, sì, no, freniamo perché eravamo in giro con la macchina, quindi dobbiamo fare. Hai ragione. Con le macchine, perché anche al plurale. A cazzo. Vedi che ha fatto le scuole alte, non come me, te, dove. High school. High school. Sì, è tornato dall'America. Rock and roll high school. Sì. Che se... film da vedere. No, è bello, è bello. Dei? Ah, dei, sì, sì, aspetta, Ramones. Ramones, dai, dai. Sì. Anche quello 79. Sì, sì, sì, sì. Sempre questo periodo qua. New Wave. Va bene. Vabbè, dopo questo silenzio imbarazzante possiamo andare avanti col programma. Sì, sì, sì, sì, sì. Allora, adesso volevo farvi sentire un pezzo, un altro dei pezzi che ultimamente sta tornando un po' in voga, che il brano si chiama Sail e dei... La cosa è una battuta. A Vol Nation. Hai capito dopo? No. Io non ho capito. Sail cosa vuol dire? Navigare? È in voga. boh, sono le 9:05, ragazzi. Ciao, ci vediamo. No, ma veramente è stato bello. Sono in voga, sei giustamente. Dove allora, non possiamo capire queste battute. No, non. Noi siamo troppo autoctoni. Cioè, rimaniamo qua da noi un pezzettino. È troppo avanti, lui è troppo avanti. Sei troppo avanti per questo programma. Sì, sì. Cioè, tu sei talmente tanto avanti che se guardi indietro vedi il futuro. Bella. Cazzo, questa qui è una perla, cazzo, ragazzi. Questa bisogna scrivere. Fammela segnare che con questa rimorchio qualcosa. Vabbè, vi dicevo, loro sono A Vol Nation e avevano fatto questo brano nel 2011. A me era piaciuto fin da subito. Mm. In realtà ho sentito che ultimamente l'hanno ripreso in una pubblicità. Quindi sicuramente adesso sentiamo, vediamo. Sicuramente che... lo riconoscete perché questo è di quei pezzi che cercavo io, quello che ti dicevo. A me sono tre pubblicità che è un brano, un misto. Vediamo come lo danno. Loro lo danno come sì, synth pop industrial rock. In realtà secondo me è semplicemente un elettronica. Cos'è? Un brano. Sai, cioè, ormai il giorno d'oggi dici cos'è? Non so, techno, trap, revolution, X-Files, no, allora... cioè, X-Factor, The Voice. Ma suona, non rompe i coglioni. No, no, no, allora, cioè, bisogna... adesso c'è un nuovo mestiere che è il sommelier della musica, no? Bravissimo. Cioè, è una punta di synth pop con retrogusto di industrial rock. Sento una venatura di jazz verso la fine del disco. però se senti c'è anche senti c'è l'artista che scorreggia. È vero, ecco. È un po' di garbage, senti il garbage, l'odore. Questo è Radio Lupo Solitario. Brutti, sporchi e puzzolenti. E puzzolenti. Vabbè, andiamo ad ascoltarci Sail di A Vol Nation, poi mi direte. Sail. in qualche pubblicità. Adesso appena la becco in TV ve lo scrivo via messaggio. WhatsApp. Sì, sì, sì, una WhatsApp. Devi andare su internet. Non la trovo. Su internet. Non la trovo. E navighi. Io ho capito, Sail. Sail. Sì. Vabbè, è come la storia della canzone di Icaro che dicevi adesso. Vabbè, dai, un po'. È vero. No, la raccontiamo un'altra volta. Magari prepariamo lo sketch. Ci possiamo fare solo un bello sketch. Bellissimo, cioè, roba che ci invierebbero anche quelli dello zoo, praticamente. Sì, no? Roba che ci farà volare. Ecco. Vabbè. Il prossimo brano l'hai scelto tu, quindi ce ne parli tu e ci dici tu. Un altro pezzo ho scelto io, vabbè. No, vabbè. Non è quello della rubrica che lo ascoltiamo dopo. No, è proprio un pezzo che hai scelto tu. Stavamo navigando a vista tra le canzoni. E ha visto da lontano. Ho visto il West. Ha visto due poppe di quella che gli stava nel video. Tu eccola là. Il video è quello di Paranoid. Noi adesso ascoltiamo la canzone di Kanye West, che qui, diciamo, forse 10 anni fa, più o meno. 10 anni fa, 2009. Anticipava un po' tutti questi suoni trap, autotune, tutte queste robe qua. Tra l'altro lui aveva fatto tipo Beautiful Monster anche. No, sì, quello è Nio. Chi è? Nio. Non è Rihanna che ha fatto Monster. Beautiful Monster, c'ha sotto un synth che penso che sia uno dei synth migliori della musica hip hop degli ultimi 20 anni. Dovrebbe vedere chi ha prodotto il pezzo. Sì, ha un synth veramente Nio, diciamo, notevole. Scrive le canzoni. Matrix. Nio Matrix. Grazie ragazzi. È brutta, eh. È brutta. Ascoltiamoci. Questa è, diciamo che è brutta, sì, brutta. Sì. È talmente tanto brutta che. Cata pazzesca! Sì. Lo dice anche il buon. La buon'anima di Villaggio. Va bene, allora andiamo a ascoltarci quindi Kanye West con Paranoid. Fit Mrs. Hudson. Mr. Hudson. So, baby, don't worry about it. Hate it, don't even think about it. You worry about the wrong things, the wrong thing. You worry about the wrong things, the wrong things. You worry about the wrong things, the wrong things. You worry about the wrong things, the wrong things. Tell me right now, you really wanna spend your whole life alone? A little time out might do you good, might do us good, but we be done for good. Cause I can make it good, I can make it hood, I can make it come, I can make it go. I can make it high, I can make it fly, make it touch the sky, hey, maybe so. All of the time, you be up in mind, check it through my cell phone, baby, no. You wanna kill the vibe on another night, here's another fight, oh, here we go. The nights alone. So now you're here with me, show some gratitude, lead an attitude way back at home. Yeah, you see him look, baby, let him look, give you cold looks, cause we look cold. Yeah, you heard about all the word of mouth, don't worry about what we can't control. All the talk in the world, lost in the world, till you finally let that thing go. You wanna check into the Heartbreak Hotel, but sorry, we're closed. Baby, don't worry about it. Don't parlare male di Rihanna, dai, dai. Ma poverina. Forse adesso, adesso mi hanno detto che sei un po'... Sì, diciamo che all'inizio, quando faceva le canzoni tipo Umbrella, Umbrella, quelle canzoni lì erano un po'... Accattateville! Se piove prendi l'ombrello. Che tra l'altro aveva fatto anche un remix di Vanilla Sky, ti ricordi? Che era bellissimo! Ma gli avevano fatto fare, sì, perché... Sì, sì, allora, una cover, una cover. A quanto so io, la casa produttrice, che è la stessa di quella di Rihanna, sì, aveva chiesto ai Vanilla Sky, che erano usciti con Sé come sei, la loro canzone del cazzo, di successo italiana, di fare una cover di un loro cantante, e loro avevano scelto Umbrella e avevano fatto sto pezzo. Sono arrivati anche i primi in Germania, se non sbaglio. Sì, non era male, era molto meglio dell'originale. Poi cos'è che aveva fatto anche, che dicevi prima, remix, cioè lei aveva fatto anche una cover di, del brano di Michael Jackson. Ma se non ha, non ha costato... Ah, sì, sì, il campionamento di Wanna Be Stamessante. Eccola che... Sì, la canzone era... La canzone? Mi, Wanna Be... No, wanna be start the something. Ah, sì, sì. Something something something. Era something something. Something. È la canzone di Sammy. Ho il video quando parla così. La prima canzone di Thriller, prima prima canzone. Lato A. Mizzeca. Guarda che abbiamo qua l'uomo gatto. È un pozzo di sapienza. Lo chiameremo l'uomo gin. Beh, visto l'altezza è un pozzetto. È un Renato. Un Renato. Sì, ma qua è la guerra tra i poveri in altezza, cioè. Sento vero. Alto, ma non pensa, che... lui qua, qua Dio ci ha lasciato un po' più. Lui è un pozzetto. Noi siamo Fabio e Domingo, quindi cioè, è proprio. Cioè qua la vetta più alta, il K2 della situazione è cioè, 1,72 tu... e mezzo, proprio per dir tanto. Vabbè, oh, dai. Andiamo avanti nella con la botte musica. Piccola, no, ma c'è adesso, la musica no, buona. A parte adesso la musica buona, tu hai detto che ci lasci. Sì, adesso vi lascio. Ah, e dopo bene, che Fantozzi mi ha detto che ha dato una cagata pazzesca, mi ritiro. Va bene, va bene. Ti ritiri per deliberare. Deliberare, certo. Va bene, va bene, va bene. Mando dai. Fax al Papa, come dico io. Ci sentiremo settimana prossima, immagino. Sì, no? Dai, tanto dai, adesso penso. Ma qua a rompere le balle ancora. Diciamo che finché i ruvidi non suonano, il Wall Street va avanti. E non ci sono pranzi, cene e aziendali. Quindi siamo fino a Pasqua. Dicembre. Ah, Pasqua non fate niente. No, Pasqua no. Pasqua, c'è, c'è la cena, non so, tra colleghi, che però tanto per vedersi, l'aperitivello, no? Che comunque è meglio tra colleghi e colleghe, cioè nel senso... Sì, poi non c'è, colleghi è un po' tutto. Sì, no? Cioè... sì, vabbè, non è che dici colleghi. Ma li colleghi col Bostic? Ok. La... no, col UHU. Questa è una battuta da lunedì sera. Vabbè. Sì, vabbè. Andiamo a ascoltare il prossimo brano, che Tony probabilmente ricorderà qualcosa di questo brano qua, Chicks on Speed. Sì, il gruppo me lo ricordo. Sì, loro erano tipo delle rivoluzionarie, no, femministe, tipo, sai quelle lì che vanno in giro con le tette di fuori a protestare, no? Come si chiamano, eh? Loro fa, è un gruppo che... Lecile. Lecile. Come si dice? Supporta, diciamo, queste, per ora queste cause, ecco, Prince. Che visto per che abbiamo delle femministe un po' arrabbiate. Bravissimo, bravissimo. Però il brano a me piace un casino, perché... ma adesso ti voglio dire, leggilo. È Word in Rapping Hood. Però la cosa mi piace di, un casino di questo brano, che tra l'altro penso la suonavo anche alle officine, dirti il brano, che sto andando a mettere. L'inizio... vi ricorderà sicuramente una suoneria del cellulare. Proviamo ad ascoltarlo. skill, and words of romance are a thrill. Words are stupid, words are fun. Words can put you on the run. Mots pressés, mots sensés, mots qui disent la vérité. Mots maudits, mots mentis, mots qui manquent le fruit d'esprit. Questa si balla proprio, cavolo. Poi proprio ha messo la versione quasi extension. Sì, sì, no, mica 77 poi... minuti di canzone. Mica neanche la corazziata Potionk. Vabbè, vabbè, loro erano le Chicks on Speed. Sapeva molto di anni 80, Sì, però diciamo che il brano è degli anni, primi anni 2000. Sì, siamo già oltre il 2000, 2005, 2006, a grandi linee. Poi c'è questa cosa del cellulare che a me piace sempre un casino sto pezzo. E io penso... Sono più grande di te, ma mi sa che quel cellulare non ce l'avevo. No, io penso di averci fatto. Poi tra l'altro in questo periodo che sta tornando anche in televisione sta cosa degli anni 90, sì, continua... Cioè... Hai visto quello che ho scritto oggi? Sì, sì. Beh, è vero, devo dire la verità. Tu cos'è che hai scritto, giusto per... Cioè... Beh, è un gioco di parole sulla paura, sui 90, dicendo che tutta questa voglia di anni 90 mi fa più paura adesso di quando... Diciamo che effettivamente è sempre un rimanere ancorati al passato, ma è sempre così, perché per dirti, i nostri genitori a cosa gli piaceva gli anni 80 e gli anni 70, a noi piacciono gli anni 90, probabilmente a chi verrà dopo gli piaceranno gli anni 2000, cioè è in qualche modo ancorarsi al passato. È bello ricordare, però non solo quello, non c'è solo gli anni 90. Ma il discorso è come ricordare, ecco, perché... Sì. Se li ricordi come se fossero stati solo quei tempi belli, cioè che dici quello il brutto. Fa cagare. È quello il brutto. Sì. E quello è il brutto. Invece, ma anche a livello musicale, c'è tanta gente che ascolta solo musica anni 90. Cioè, ma ragazzi, Ma lasciamo stare gli anni 90, perché ma sia nella dance che nel rock, questa è un po' una frecciatina, lo so che se qualcuno mi sta ascoltando mi ammazzerà, ma c'è tantissima musica rock nuova. Nuova. Infatti, perché poi è vero che c'è l'evoluzione, cioè, ed è bello anche ricordare il passato. Io non sto dicendo, è bellissimo ricordare il passato, a me piace, ma io partirei anche dal 1900 in avanti, nel senso anche roba molto più vecchia, però la roba nuova c'è. Bene, siamo arrivati quindi al secondo brano della tua rubrica, intanto che tu stai cazzeggiando, non so cosa stai facendo, stai giocando a 3-7? No, stai giocando a poker, di la verità, hai perso tutto, ti hanno fatto un full. Sì, mi ha fatto un full d'assi. Un full d'assi. No, beh, allora sto... In questo momento Tony ha perso la macchina. No. In certo senso c'entra anche una macchina, vabbè, con una copertina di questo DJ produttore che adesso presenterò. Cioè, ah, non quindi... ha bisogno di presentazione. Dobbiamo fare... Devo prepararti una sigletta per questa cosa. Ma tu me la devi già preparare. No. Adesso mi metto sotto e te la faccio. Per settimana prossima ce l'avrai, promesso. Va bene, vabbè, ok. Va bene anche senza tanto... No, mi piace l'idea. Vabbè, allora, come dire, oggi ho scelto una canzone che lui è famoso perché fa un programma, famoso per un programma, anzi, lui è un famoso DJ, producer, trance, techno, quello che vuoi. E il boss dei tuoi amici Acrobat. No, autografo. Che roba. Beh, è solo l'etichetta, tra l'altro. Sì, è uno dei fondatori, ma diciamo il capo, lui è olandese. E nel 2003, mi sembra, ha fatto questa canzone in collaborazione con una cantante olandese, dei Within Temptation, che il nostro Diego conoscerà, è un gruppo symphonic metal. E come vedi, già non è la prima volta che trovo diciamo una parte rock che si incrocia con un altro genere che poi non c'entra nulla. Dunque, Amy Van Buren, musica elettronica. Anche di un certo tipo. Con lei che, con un gruppo che anche loro spaziano molto dal rock, noti metal, tutto quello che vuoi. E hanno fatto questa canzone molto romantica, direi. Sai che addirittura romantica. Sì, siamo su un genere... Sembra interessante la cosa. Sì, anche lei è interessante, ti posso dire. Davvero? Davvero? Sì, la cantante, sì. Andiamo subito a cercarla. Adesso non mi ricordo il nome, È Sharon Adel. Anche lei olandese. E... intanto si sente proprio che la sto cercando. Sì, infatti. No, è una bella donna. Vi consiglio di cercarla, dai, va bene. Sì, sono passati anche gli anni per lei, con 3 figli, però si mantiene bene, dai, diciamo. E adesso andiamo ad ascoltare quindi anche se ha una bella voce, giusto? Sì, è molto... la cosa bella di questa canzone è la sua voce... diciamo come la cantante degli Evanescence. Ah, ok. Ricorda My Immortal, ma con un po' più di elettronica, va bene. Ok. Dai, per mezza tonica, stasera Amy Van Buren ci presenta con Sharon Den Adel la canzone In Out of Love. We'll be right back. È molto lupo l'ultimo pezzo. No, ma mi è piaciuta molto, mi è piaciuta molto. Non la conoscevo né il pezzo né la cantante. No, no. Diciamo dei pezzi più famosi di Amy. No, ma è anche il video più, no, il secondo video più visto nella sua etichetta, l'Armada. Che tra l'altro stiamo parlando adesso che lui ha creato questo podcast milioni di anni fa è diventato anche proprio un programma quasi televisivo. Un evento televisivo radiofonico. Che ogni anno, adesso l'ha appena fatto in Australia, 850 puntate, pensa un po', pensa un po'. E l'ha fatto così. Noi siamo arrivati alla puntata 40, se ti vuoi far piacere. Più o meno. Magari cosa ci daranno? No, devo vedere quant'è il numero proprio, perché beh, quest'anno dovrebbe essere la puntata 12. Sì. L'anno scorso ne ho fatte una ventina. Quando arriviamo alla puntata 50 dobbiamo festeggiare. Va bene. Bisogna festeggiare. Okay. Va bene, va bene. Adesso continuiamo, riprendiamoci un po' dalla musica mezzatonica, più mezzatonica, quindi una tonica, e passiamo a un brano di un artista che probabilmente tu dici, ma perché mette questo artista? No, beh, se lui è Afrojack, sì, che Afrojack si sa, ha risaputo che produrre house, tech house molto commerciale. Ed è molto commerciale. Molto commerciale. Famosa la canzone con io. Pezzi che a me piacciono. No, a me piacciono. Sì, sì, beh. Però diciamo che Afrojack è uno stereotipo, diciamo Afrojack Pitbull, sì, ti viene sì, in mente sì, subito sì. Un certo tipo di musica. In realtà questo qua è un brano, si chiama No Tomorrow ed è l'ultima? Non lo so, non lo so. Ha fatto un disco ultimamente molto pacato, che dice Afrojack. Potrebbe anche potrebbe essere questa, ed è un brano praticamente un misto tra il suo genere. Sì. E è un misto tra l'hip hop e il rap. Vabbè, facciamo così, lo ascoltiamo sì. E poi dopo olandese lo andremo a giudicare. Sì, sì, sì, olandese, olandese. Lo andremo a giudicare. Sicuramente è un brano che non sentiremo in radio. Io ci scommetto quello che vuoi. Ci quindi ascoltatevelo qua perché poi non lo ascolterete più. Andiamo ad ascoltare quindi Afrojack con No Tomorrow Fit. Belli. Belli, che sarà il cantante. Ah, Belli! OT Genesis and Ricky Breaker. Ma quante roba. T'hai visto? Ah. Senti, senti qua che roba. Oh yes, might just blow a whole check. Oh yes, run up like a old dad. Oh yes, she broke up in my old sweats. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, I just blow a whole check. Oh yes, run up like an old dad. Oh yes, she broke up in my old sweats. Oh yes, oh yes, oh yes. Whoa, wake up every morning, thank God for another day. Whoa, I roll it up, light it up, hit the blunt and take the pain away. No tomorrow like there's no tomorrow. No tomorrow like there's no tomorrow. Tryna lock me down just like it's probation. Beating old cases, cracking cold cases. Talking like a freak, I know you ain't one. I know what you came for, you know where I came from. Yo, money talking but they ain't saying none. Ballin' like day one, me and I'm a day one. Hey, no tomorrow like there's no tomorrow. No tomorrow like there's no tomorrow. We getting lit just like there's no tomorrow. There's no tomorrow, no tomorrow like there's no tomorrow, no tomorrow like there's no tomorrow, we getting lit just like there's no tomorrow, okay. No tomorrow like there's no tomorrow. I bought a double R, yeah. I bought a new chain, yeah. I bought a new house, right. I bought a new ring, right. Got me a check, a check, a check, I'm feeling so cool, man, cool. All of these rappers wishing they me, but in these school, man, I love a white girl. White girl. She drive me so crazy. Smoking on all this weed. Gas. It got me so lazy. Go. Always knew that I'd be a star. Just like a Mercedes. Shine. All of these whips in my front yard. But I'm like, fuck slavery. Living my life today. Hating on me, better pray. Pray. Known for selling the yay. The work. Day after day after day. Go. Caught me a case. Beat the charge. Now I'm back in the street. Street. Jewelry lit. Now I'm froze. Just like a package of meat. No tomorrow like there's no tomorrow. No tomorrow like there's no tomorrow. We getting lit just like there's no tomorrow. No tomorrow like there's no tomorrow. No tomorrow like there's no tomorrow. No tomorrow like there's no tomorrow. We getting lit just like there's no tomorrow. Sai che c'è qualcuno che qua chiede sulla chat? Cos'è che? Sulla chat. Che chat? Di Wolf Trips, una certa Zaira si chiede: ma gli Afrojack? Ma gli Afrojack? Che poi sì, è uno solo. Che infatti, però... ma che sai, gli Afrojack sono in tanti. Vabbè, salutiamo Sara, scherzo, che sarebbe dovuta essere qua tra di noi, ma ci ha paccata all'ultimo momento. Sì. Stasera non ci sono le donne. Stasera sì, è un programma solo mascolo. Infatti, abbiamo messo così. Senza donne. Stasera è la fiera della salsiccia, mettiamo così. Che schifo, dai. Va bene tutto. Vabbè, scusa, non c'è patata. Sì, vabbè, quindi ti è piaciuto sto brano? Non è il solito degli Afrojack, è un pezzo un po' diverso. Sì, i suoni sono i suoi, Beh, i suoni è tutta roba sua. Cioè lui fa la parte musicale. La parte musicale, sì, sì, okay. Sì, ovviamente non canta, ma anche proprio lo stile di musica. Diciamo che è un po' più diverso dal suo solito genere. Abbiamo messo due DJ, produttori, quello che vuoi, olandesi, che l'Olanda è famosa per hardcore e via dicendo, con due pezzi che non ci azzeccano niente. Con l'hardcore, ma meglio, direi, molto meglio così, dai. Beh, la differenza di anni c'è tanta, perché uno ti ha detto del 2003, 2004, e questa è cosa di che anno, No, questa è del 2018, proprio nuova, proprio questa è presa da Beatport, quindi ufficiale da Beatport. Minchia, spendi i soldi. che qualche soldino bisogna spegnere ogni tanto. È giusto, sopportati i vostri... Quindi, diciamo che adesso partiamo con la classifica un po' di Wolf Trips. Trovate il nuovo aggiornamento sulla pagina di Facebook. Tra l'altro vedo che è sempre più seguita questa classifica, vedo che sta riscuotendo un bel successo. Gusti. Sì, sì, sì. È una classifica che praticamente si basa sostanzialmente su musica proprio underground. Troverete dei brani magari che si possono conoscere in qualche modo, oppure che si stanno iniziando a sentire nelle varie radio. Però tutta roba abbastanza underground, abbastanza nuova, però secondo me merita molto. Per esempio, il primo brano che andremo a ascoltare le prime 5 posizioni, la classifica 10 posizioni, sennò monopolizzeremo troppo il programma. E il primo brano è di Charlie Puth, How Long, che è un brano che in realtà si sente adesso ultimamente in radio, lo sentirai sicuramente. Beh, lui poi è già da un po' che in giro. Sì, sì, sì. Ha fatto un bel po' di singoli di successo. Però questo qua è il remix di Jerry Falk, che è un artista che avevo già suonato tempo fa su Wolf Trips e fa della musica davvero... No, fa della musica elettronica veramente molto, molto bella, molto bella. Andiamo a ascoltare quindi Charlie Puth con How Long, remix di Jerry Falk. While you're creeping around on me, while you're creeping around on me, while you're creeping around on me, while you're creeping around on me, while you're creeping around on me, while you're creeping around on me, while you're creeping around on me, while you're creeping around on me, while you're creeping around on me, you've been creeping around on me, while you're calling me. Maybe how long has this been going on? You've been acting so shady. I've been feeling it lately. I'll admit I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but I promise there were no feelings involved. No. She said, "Boy, tell me honestly, was it real or just for show?" Yeah. She said, "Save your apologies, baby. I just gotta know how." Oh, And I try, but you'll never see that. You're the only one I wanna love. Oh yeah. She said, "Boy, tell me honestly, was it real or just for show?" Yeah. She said, "Save your apologies, baby. I just gotta know." On me, are you coming around? On me, are you coming around? On me. Are you coming around on me? Are you coming around on me? Are you coming around on me? Are you coming around on me? Are you coming around on me? How long has intanto salutiamo i ragazzi del Wolfman Jack, che io ogni volta mi confondo con il nostro nuovo di programma. L'italiano è il DJ di American Graffiti, lo posso dire. Sì, sì, sì, giusto, giusto, giusto. Continuiamo intanto con la musica, con i brani della classifica. Questo qua è il brano numero 4, bravissimo, bravissimo. Un po' questa è molto, una roba molto anni 80. Okay. E il brano questo qua è di Hotel Garuda con Dancing on the Moon. Time to get up and see that we only can dream. How does it make you feel? Does it make you believe? 'Cause when I'm with you, we could be dancing on the moon. Come on, now get on up. Ok, ok, riprendiamo sì, sì, veloce. Oggi di corsa. Sì, sì, no, facciamo una cosa proprio veloce di corsa, sì, sì, che sì, poi dobbiamo. Ma anche gli ospiti magari iniziano a ballare, no? Sì, sì, sì, no, li vedevo abbastanza presi bene. Tanto tu, intanto ti ricordiamo che tu lunedì sarai qua. No, questa era una bastardata. Vabbè, oh, hai anche altre attività oltre cioè, guarda, se per caso mi scappa l'ingaggio, qualcosa di più importante, io non, te ne vai via. Non mi ricordo di te. Te ne, te ne vai via. Vabbè, vabbè, andiamo avanti con il prossimo brano. Questo è il numero 3. Prova a dire, a vedere un po' come si chiamano questi. Due cazzo. I cugini di campagna. Sì, la traduzione è quella. Di... Sì, sì. Ma non ho capito qual è il gruppo. Patawawa. Patawawa. La canzone è Patagonia. Sì. Ok. Ti piace sto brano qua, molto allora? Molto funky anni 70, sì, sì, veramente sì, sì. Tra l'altro il pezzo è uscito nel 2000, dicembre 2017 invece. Viva la patata wawa. Sì. Patagonia, Patagonia. No, viva la patata wawa. Sì, sì. E il prossimo invece è degli Autograph, che ormai sono dei veterani del programma. Armada Music. Sì, sì. Etichetta Armada Music, il brano è Smell Like Teen Spirit, che non è l'originale, sì, vabbè, ne abbiamo parlato mille volte, dai, bla bla bla bla. Andiamo ad ascoltarlo. Questo è il numero 2. Thank you. questi qua erano gli Autograph. Quindi partiamo poi con l'ultimo brano della giornata. Siamo di corsa. Siamo di corsa, sì, ho fatto proprio una staffetta. E sembra il numero uno. Abbiamo invece Luis De Child con Last to Live. Potrebbe essere Last giusta la pronuncia. Sì. Last to Live, dai. E ancora numero uno, anche settimana scorsa. Ti piace tanto, mi piace tanto, mi piace tanto, è un bel pezzo. Questo è il brano, diciamo, più underground del periodo. Numero uno. You took it off the table, then I put it back again. I'm really good at starting, but I don't know when it has to end. You're leaving in reality, I'm staying in pretend. Here I am, here I am, holding on. Here I am, here I am, and you're gone. I'm the last to leave the party, don't know. Viaggi del lupo. E anche per stasera abbiamo concluso, dai, abbiamo messo un bel po' di musica diversa dal solito stasera. Siamo arrivati in 100.000, infatti. No, infatti lasciamo subito lo spazio al programma dopo. A Italo. Sam. E Sam. Certo che puoi dire tutto quello che vuoi. Lunedì, vero, chi fa la regia? Sì, lui lunedì farà una... Io faccio lunedì la regia. Ascolta, mi potresti mettere Grazie dei fiori di Nila Pizzi? Sì, sì. Senza con il mazzo. Diciamo che il mazzo glielo fanno a lui. Ok. Se poi anche vaffanculo di Masini. Di Masini, no, è una canzone ma di Masini. Che forse nevica, forse mi va bene. Ma come nevica? Cioè, nevica. C'è lunedì, il sole. Cioè. Lunedì sera, cioè lunedì danno neve. Ma per piacere. Sì, quando Radio Lupo ha deciso di andare a Sanremo, ci saranno 50 metri di neve. C'è il lupo che si è girato contro il muro. Vabbè, vi salutiamo. Noi ce ne andremo volendo. Se ve ne andessimo, ce ne andiamo in treno. Ce ne andiamo, no, anche no. Anche no. C'è qualcuno che lo viene, uno che si chiama Italo. Più di così, sì? È arrivato. Vabbè, ciao Tony. Ci vedremo settimana prossima. Se siamo ancora qui, boh, chi lo sa. Ciao Domenico. Chi lo può sapere? Sì, Wolf Trips. Termina qui. Noi speriamo che ci sarà ancora settimana prossima. Non so perché ho fatto questo finale molto catastrofico. Mi sto toccando le palle. Non lo so. Vabbè. Ciao a tutti. Ciao.